Il problema vero è che la Germania ha fatto quel boom perché ha fatto una colossale mole di investimenti. È l'investimento che fa il lavoro, non la liberalizzazione, come pensava anche Schröder. La Germania era una malata, ma era meno malata di altri. Capitali sono andati lì, ma non capitali finanziari, capitali industriali. Guardi le riforme nella fabbricazione che ha fatto la BMW, che ha fatto la Volkswagen. Quali sono gli investimenti? Ha aumentato la produttività del lavoro. Ma non scherziamo, ragazzi. Ma queste sono favole. Certo che se le ripetiamo tutti. Allora, adesso... Mi scusi, Sapelli, quindi dopo l'austerity c'è ancora austerity? Ma se dopo l'austerity c'è austerity, c'è la depressione, il crollo, la disgregazione sociale. Quello che sta capitando in Sardegna, a Napoli, non è che l'inizio della disgregazione sociale, perché quando la gente non ha più i soldi per pagare il mutuo, quando le famiglie anziane non hanno più i soldi per pagare i figli giovani sposati che devono vendere la casa e la banca non glielo compra, ma gli toglie anche il mutuo, amico mio, l'unica cosa è l'immissione di liquidità, che non è assistenzialismo, è politica per un investimento sociale. Così aumentiamo i debiti. Ma chi se ne trafotte? Ma scusi, ripeto sempre, il Giappone c'ha 280% di debito. Ma cosa vuol dire? E va bene. La Spagna era a posto, è andata in default. Ma non mi dirà mica che gli investitori non investono in Italia perché c'è il debito pubblico? Poi, in ogni caso, io capisco che ci può essere un differenziale di share. Allora bisogna fare una politica europea neo-keynesiana.